Ed eccoci con Constance Ponti, che sarà in scena con lo spettacolo Altrove dal 16 al 27 di novembre al Piccolo Eliseo. Constance, benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao, benvenuto, grazie. Ci racconti un po' di questo spettacolo? Certo, allora lo spettacolo già dura poco ed è bellissimo, così si vende. Allora, è uno spettacolo che, come hai detto, si chiama Altrove, al Piccolo Eliseo, da domani, ed è uno spettacolo, senza fare lo spoiler, cosa posso dire? Che è la storia di un ragazzo che non sa che la vita può essere diversa e che se la può anche decidere lui, perciò immagina questo ragazzo se può sognare. Assolutamente no, invece c'è una ragazza, che sarebbe il mio personaggio, che prova a dargli il coraggio di crederci, e un uomo, Massimo De Lorenzo, che non ci ha mai creduto. Ecco, e gli attori sono Massimo De Lorenzo, Mario Russo, io stessa, poi abbiamo una compagnia bellissima, con delle luci fantastiche di Danilo Fa, con delle musiche bellissime di Alessio Mancini, una scenografia di Sonia Orfalian, e il testo è scritto e la regia è fatta da Paola Ponti. Poi volevo dire un'altra cosa, sì. Il titolo è Altrove. E allora, Altrove cos'è? Adesso non spiegherò tutto lo spettacolo, ma io penso che ciascuno abbia un altrove, e l'altrove per tutti è libertà e possibilità, e io penso che questo ha voluto dire Paola Ponti in questo spettacolo, e quello che noi almeno come attori cerchiamo di raccontare, e che abbiamo tutti in 2016 oggi la possibilità di essere liberi, possibilità di scegliere, possibilità di sognare, anche che se in 2016 oggi con tutto quello che succede non sembra così facile, invece si può ancora, ecco. Senti, e se non sbaglio, Altrove è lo sviluppo di un corto che faceva parte di un progetto più complessivo. Esatto, allora, tutto è cominciato con Il ritratto di una capitale, che era un progetto di Antonio Calvi e Fabrizio Arcuri al Teatro Argentina in novembre 2014. Sì. E perciò era un corto di 40 minuti. È piaciuto, a noi anche è piaciuto molto, e l'autrice ha voluto farne qualcosa di più grande, più complesso. Comunque la storia rimane quella, e il messaggio da fare passare rimane quello. Benissimo. Allora, le date e il titolo li hai ricordati tu, al Piccolo Eliseo dal 16 al 27 di novembre, Altrove. Esatto. E non sbagliamoci, alle 8 di sera e la domenica alle 5. Ok, quindi perché sennò la gente ci arriva alle 9. Alle 20. E ci lasci 20. Tutti anche i riferimenti web per le informazioni? Allora, sul sito del Piccolo Eliseo e dell'Eliseo ci siamo, si possono comprare i biglietti, su tanti altri siti, se tu scrivi su Google Altrove di Paola Ponti trovi quello che vuoi per comprare i biglietti, però c'è anche da dire che se tu hai Facebook e vai sull'evento Altrove di Paola Ponti, che è un evento pubblico, puoi fare un video selfie dicendo qual è il tuo sogno, e il biglietto verrà ridotto a metà prezzo, perciò a 15 euro. Vale proprio la pena farlo, secondo me. Allora, Constance, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, arrivederci, buona giornata. Ciao.